Buongiorno, avete visto stamattina Noemi ha preso tutto il palco. Credo che sia per la prima volta che sia stata qui, o si è liberata degli altri o invece purtroppo ha dovuto fare perché mancano, perciò diamoci. Che vi fa pensare? O che vi suggerisce, che vi trasmette questa immagine? Riflettiamo sopra. Logicamente noi stiamo sempre affrontando il tema, il soggetto riguardo alla salvezza che riceviamo attraverso il sacrificio del Signore Gesù e che ognuno di noi poi è chiamato a trasmettere, ad affidare agli altri. Perciò che cosa vi suggerisce questa immagine? Lo struzzo con... io ho voluto prendere questa immagine, vediamo quanti hanno pensato interiormente, senza dire che l'hanno detta ad alta voce, alla timidezza. Nemmeno uno. Proprio è un'immagine che parla forte, forte e chiaro. La timidezza, va bene? Questo dà, anche se noi dobbiamo dire questo, credo che la gran parte lo sa, lo struzzo non mette la testa sotto la sabbia per nascondersi o evitare i nemici, va semplicemente a controllare la temperatura delle uova che ha messo sotto, va bene? Quindi però l'immagine dà quello di nascondersi, di mettersi dietro, di non farsi vedere della timidezza. La timidezza, ecco, affrontiamo il tema della timidezza riguardo proprio all'annunziare Cristo, la timidezza in relazione al mostrare la vita con il Signore Gesù. Ora, la timidezza, lo sappiamo, è una sensazione, è uno stato d'animo che poi si manifesta come disagio, come incertezza, come inadeguatezza. Chi la vive forte sa che vive queste cose. E tutto questo deriva semplicemente da paure che ci sono dentro di noi. Paure che noi viviamo, sono paure che possono essere reali o solo anche immaginarie, però lo stesso determinano il mio, il tuo, il nostro comportamento, il nostro modo di essere. Più evidente poi la timidezza si manifesta quando noi dobbiamo parlare di Gesù o mostrare che siamo credenti, quando siamo anche costretti qualche volta, ma tu non vai a... Sì, ma... Perché la paura emerge proprio in quei momenti, ancora di più, e non solo in quello, anche quando dobbiamo prendere decisioni. Decisioni quando viene fatto l'appello di accettare il Signore Gesù quale personale salvatore che dà veramente un nuovo modo di vivere e che trasmette a noi salvezza in tutte le direzioni. Però quando si tratta di fare la decisione o di fare il passo avanti, quando viene fatto l'appello, vuoi accettare Gesù, allora titubante. Quando qualcuno proprio coraggioso, ma proprio coraggioso come abbiamo cantato, sii forte e coraggioso, allora alza la mano. Quindi già quello è un passo molto in avanti. Perché? Perché sempre quei timori affiorano in quei momenti che ti fanno vivere delle sensazioni che ti mettono in imbarazzo. Perciò diventa realmente, per chi lo vive, ma io dico questo, lo viviamo tutti quanti noi, non forse come una timidezza opprimente, come una timidezza che incatena, che blocca per tutto, come l'ho vissuta io nella gioventù, ma come con qualche timore, qualche paura, qualche apprensione di qualcosa, la viviamo nelle varie situazioni e quindi diventa proprio un combattimento interiore, lo faccio o non lo faccio, sì o no, e diventa proprio una lotta. E poi, ecco, questo è anche importante vedere, io avremo tante slide, si dicono adesso, una volta erano le diapositive, va bene, che mostra che la timidezza si veste di, mette la maschera, si camuffa, praticamente vedete, la timidezza si maschera da non è il momento, non è il momento. Fosse mai il momento comunque, però vedete, l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, se si va a leggere quel qua, dice ti scongiuro, ti prego, non lo so quello che voleva fare Paolo, predica la parola a tempo e a fuor di tempo. Un'altra versione dice in ogni occasione, favorevole o sfavorevole. Quindi è sempre il tempo. Non sono le mie paure o le mie timidezze che devono determinare quello che il Signore mi chiede. Si veste ancora di non è opportuno. Non è quante volte non è opportuno parlare in quel momento perché il personaggio che ci sta davanti ci incute un poco di timore o ci impressiona per la carica che ha o per, non lo so, qualsiasi, dice no, non è opportuno adesso. E proprio Gesù ha detto nell'Evangelo di Marco, se non sbaglio, sì, Marco 13, ha detto voi, tu ed io comparirete davanti ai re, ai magistrati, davanti ai governatori e non preoccupatevi di quello che direte. Non vi preoccupate. Tu apri la tua bocca e il Signore, lo Spirito Santo, metterà le parole giuste, le parole adatte al momento e al personaggio. Ma è il passo che noi dobbiamo fare di aprire la bocca, di parlare. A questo il Signore ci chiama. Il terzo aspetto di cui ho maschere anche, questo è quello che forse è proprio più viene usato, non è uno che vuole, vi ho parlato già tante volte, lo sa che io, e qui viene proprio in mente l'episodio di Anania, quando il Signore lo ha chiamato a alta voce proprio, dice Anania, sì Signore, immediatamente, anche noi sappiamo, quando avvertiamo qualche sensazione, qualche parola, quando leggiamo la Bibbia e sentiamo la parola chiara, forte, sì Signore. Poi dice, vai da Paolo ad annunziare l'Evangelo. Quale fu la risposta di Anania? Vi ricordate? Signore, è proprio a lui. Quella mette in carcere, ammazza, va proprio a lui. Quante volte noi diciamo a noi stessi, ma proprio a Lui, quello è uno che non vuole, quello è uno, e invece il Signore ci chiama proprio a questo. Ricordati che quando noi manifestiamo questi aspetti o queste scusanti o queste maschere, è semplicemente perché forme di timidezza o di apprensione si manifestano dentro di noi per impedire quella che è l'opera di Dio, quello che il Signore, a cui il Signore ti chiama. Ma nella Bibbia c'è un personaggio, che lo abbiamo già citato, che ha vissuto di sana pianta tutte queste cose, e questo è Timoteo, e lo andremo a vedere, analizzare. Però prima di questo io vorrei invitare qui avanti Michele, che ho chiesto mille volte il cognome ma mi sfugge sempre, va bene, ma non è importante. Perché invito Michele qui avanti a dirci come ha conosciuto il Signore? Vieni più sotto, sì, la luce, sì. Lo so che... Michele, perché ho voluto invitare Michele? Perché Michele è l'immagine della riservatezza, dell'essere gentile, riservato, appartato, di timidezza. Però c'è un qualcosa di molto forte. Tutti quanti noi lo conosciamo. Tutti lo conosciamo. Io come l'ho conosciuto, l'hai conosciuto anche tu, perché lui sta all'accoglienza. Lui sta all'accoglienza. Si è messo a servire nel posto più imbarazzante di questo mondo, che devi salutare ognuno, devi accompagnare ognuno, non tutti sono simpatici quelli che ti presentano davanti. Ma io voglio chiedere a Michele, come hai conosciuto, brevemente, perché io ce n'ho, sai, allora brevemente, come hai conosciuto il Signore e perché hai deciso di servire il Signore in questa maniera? Allora, io, tanto per coerenza, il Signore l'ho conosciuto da solo. Questo perché? Perché nascendo in un contesto pienamente cattolico, io sono stato comunque esposto a verità più o meno cristiane fin da piccolo. Però essendo comunque una persona curiosa e facendo domande in continuazione, stressando catechisti e preti, diventavo l'incubo della Chiesa cattolica. Perché le domande ad una determinata persona possono far nascere occasioni, ad altre possono essere sinonimo di problemi. Io ero sinonimo di problemi. Quindi ho avuto quell'attimo di pausa, perché di risposte non ne stavo ricevendo, e un bel giorno mi sono detto, le domande io le faccio al maestro per eccellenza. Quindi perché rivolgermi ad una persona quando mi posso rivolgere al libro di testo? Ho aperto la Bibbia, ho iniziato a leggere, inizialmente mi sono ritrovato completamente confuso, però ho detto dai, leggiamo, continuiamo a leggere. Da lì in poi sono stato anche aiutato da molti video evangelici, quindi la Chiesa, prima ancora di conoscerla, già mi stava aiutando. Ed è stato lì che ho conosciuto il Signore, ed è stato lì che il Signore mi ha fatto sapere che essere, tra virgolette, lupo solitario non va bene. Io con la solitudine ci stavo bene, ma non totalmente. Il Signore mi aveva fatto capire che io avevo bisogno della Chiesa e mi aveva fatto conoscere la Pieno Vangelo. Io il primissimo giorno in cui sono venuto qui mi sono letteralmente innamorato. Non lo dico soltanto perché sto sul palco, io lo dico a chiunque qui fuori, perché l'accoglienza appunto che è stata data qui è un'accoglienza che non è umana, è un'accoglienza che viene data a sconosciuti, che persone esterne non sanno dare. E questo mi ha fatto appunto innamorare, mi ha fatto venire qui, mi ha fatto chiedere ad Antonio De Nicolo di servire nell'accoglienza, appunto per sfidare questa mia timidezza e farla progredire in un certo senso in un essere introversi, che è differente, perché la timidezza è una, come ha detto giustamente il pastore, è una debolezza, l'essere introversi è una scelta. Io mi apro alle persone, ma mi apro completamente per chi mi dà la possibilità di aprirmi, non mi piace essere prepotente. Quindi se una persona mi dà la possibilità di aprirmi pienamente, ok, altrimenti rispetto la scelta della persona. Quindi la Chiesa l'ho conosciuta così, Dio l'ho conosciuto in questa maniera. Qualsiasi cosa dovesse succedere, penso proprio che non lo abbandonerò, altrimenti le cose sono certo che andranno peggio. Quindi nulla, io sono contento di questo e ci tengo a dire ad ognuno di voi che voi siete causa anche della mia fede e della mia presenza qui, perché non è scontato che sia qui. Cioè, se io non mi trovo bene in un luogo, lo cambio. Non mi faccio troppi problemi a spostarmi. Se rimango è perché io vi vedo come casa e come famiglia. Grazie. Che forte, eh? Non è questo l'Evangelo vissuto, è quello che il Signore è capace di fare. È incredibile, gloria a Dio. Ma adesso passiamo a Timoteo, che non è molto distante da Michele o da me, eh? Cioè lui viveva più o meno le stesse cose. Ma io voglio dire, come anche Michele ci ha guidato, accetta le sfide di Dio. Quando il Signore ti chiede, ti suggerisce, ti fa sentire un alito di servire, di fare una qualsiasi cosa, accetta, quella è la sfida di Dio per liberarti e per farti godere e gioire di tutte le benedizioni sue. Da dove noi facciamo il passo indietro, noi mettiamo una griglia davanti all'opera di Dio e che non si può manifestare dentro di noi o su di noi. Perciò accetta le sfide di Dio, anche se pensi che siano più grandi di te, anche se pensi, adesso lo vedremo anche con Timoteo, quanto più grande di lui erano le sfide, però lui ha accettato. Perciò leggiamo Timoteo. Guardiamo a Timoteo, leggiamo questo passo, 2 Timoteo capitolo 1 verso 7, quello che Paolo dice a Timoteo, da qui già si capisce. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. La timidezza non viene da Dio, lasciala a parte. Infatti Paolo che cosa ha preso in considerazione? Non tanto la timidezza, dice lascia stare, non l'hai avuto da Dio, buttala. Ma tu hai avuto uno spirito di forza. Infatti in Atti degli Apostoli al capitolo 1 è proprio scritto dicendo il Signore ai suoi discepoli, rimanete qui perché quando voi riceverete lo Spirito Santo, riceverete potenza per fare ogni cosa. È la potenza dello Spirito Santo che fa manifestare i frutti dello Spirito Santo. Paolo ha nominato il primo, è andato via, ha nominato il primo e l'ultimo. I frutti dello Spirito Santo, 9, ma lui ha nominato l'amore, che è il primo. Guarda l'amore, supera ogni cosa guardando all'amore, al voler bene, e l'autocontrollo, che è la gestione di tutte le cose che noi viviamo mentalmente e sentimentalmente. L'autocontrollo è gestire quello che vivi, altrimenti ti fai vivere da queste cose e rimani continuamente insoddisfatto, incompleto e mai raggiungi quello che era il tuo desiderio. Fai guidare dal Signore queste cose. Vediamo però, io li ho messi tutti nelle slide in maniera tale che velocizio e non prendo molto, molto tempo. Come si manifesta in Timoteo la timidezza? Timore. Infatti Paolo dice alla Chiesa, raccomanda alla Chiesa di Corinto, dice mi raccomando, che poi se lo arrivo a sapere ve lo faccio vedere io, mi raccomando, quando viene Timoteo non incutetegli timore, non fategli vivere il timore, perché probabilmente Timoteo era anche uno timoroso, pauroso, e raccomanda la Chiesa di Corinti a non fargli vivere quelle cose. Poi in 2 Timoteo, a capitolo 2, il verso 8, Paolo dice a Timoteo: non ti vergognare dell'Evangelo, non ti vergognare dell'Evangelo, e nemmeno di me che sono in carcere. E Paolo poi dice di se stesso in Romani, al capitolo 1, il verso 14 o 16 penso, dice: io dalla sua testimonianza, e dice: non mi vergogno dell'Evangelo. Perché? Perché è potenza di Dio per la salvezza per ognuno che crede. L'Evangelo è la potenza di Dio per salvare ognuno. Ogni volta che tu stai annunziando, stai dando una testimonianza o stai mostrando la vita dell'Evangelo dentro di te, stai espandendo salvezza che il Signore fa. Vedete quanto è determinante che noi prendiamo questo atteggiamento. E ancora di più, l'ultimo punto. Paolo dice a Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovinezza. Si pensa che Timoteo avesse fra i 17 e i 20 anni all'incirca quando lui ha incominciato a servire il Signore. Ma e questo è quello che noi viviamo molte volte dentro di noi. Troppo giovane, e te lo fanno anche sentire. Ma che puoi sapere tu? Io che ho vissuto so le cose, però io che ho vissuto, puoi dire: no, troppo vecchio, non queste cose, ormai è passato il tempo. Come se potesse mai passare il tempo di annunziare e mostrare Cristo. Allora, vedete, Paolo raccomanda al giovane timido Timoteo di non avere timore, ma di fare. Anzi, gli dice: come già t'ho scritto, mi raccomando, rimani ad Efeso. Mo, la chiesa di Efeso era una delle chiese, una chiesa tosta, ecco, diciamo così. Ma per fare che cosa? Volete vedere che cosa Timoteo doveva fare nella chiesa in Efeso? Vediamo. Paolo dice: vai, riprendi gli indisciplinati. Io l'ho scritto in italiano, ma là è detto proprio, se l'è andato a leggere, è proprio detto gli anatema, quelli che predicano a modo loro, insomma, gli indisciplinati. Timoteo, 17, 18, 19, 20 anni, timido e timoroso, doveva riprendere questi che erano dei leoni. Paolo lo manda, nomina, qui è ancora più ridicolo, nomina vescovi e diaconi. Lui doveva rimanere là per nominare i vescovi, cioè i pastori e i diaconi della chiesa. Lui, un giovane, anche se pieno dell'entusiasmo del Signore, ma doveva fare queste azioni così... più grande, è proprio gigantescamente enorme, più grande di Timoteo e di chiunque. Lui è rimasto là per fare questo. Ancora, ammonisci i ricchi, però è scritto che fanno della ricchezza il loro orgoglio e la loro... Allora, siccome noi fra di noi, no? Siamo tutti ricchi, ed è vero, perché ti devi confrontare sempre con quelli che stanno peggio di te. Siccome noi siamo tutti ricchi, allora accettiamo l'ammonimento di Paolo a trattare quello che noi abbiamo con generosità, dice, che sono generosi e che operano con quei soldi l'avanzamento del regno di Dio. E poi ancora di più, curare e guidare le vedove. Lui è un ragazzino e bisogna dire che all'epoca c'erano molte vedove, tant'è vero che anche in Atti degli Apostoli Stefano era per curare anche le vedove. Perché? Perché si moriva molto giovane e le donne rimanevano senza marito. E dice proprio di curare le vedove che si comportano da vedove e riprendere le vedove che vanno in cerca di... Quindi vedete, cioè, vedete che compito l'Apostolo Paolo, il Signore, ha affidato a Timoteo, ha affidato a me e a te. Questo noi abbiamo davanti, di essere l'aiuto per gli altri, perché abbiamo la potenza dell'Evangelo dentro di noi, non perché io sono capace, non perché tu sei capace, non perché chissà quale doti hai, ma semplicemente perché hai l'Evangelo dentro di te, e questo ti permette e ti fa alzare a essere un come si dice, un portabandiera dell'Evangelo di Gesù Cristo. Allora, amen, qui ci voleva proprio, eh? Amen, amen. Realmente, povero, potremmo dire, povero Timoteo. Però, leggendo le due lettere a Timoteo, vediamo come lui ha assolto molto bene a quel compito. Anzi, poi, l'Apostolo Paolo dice questo, questo è giocare, questo devi rimanere là, giusto per divertirti un poco, perché poi tu devi svolgere il tuo vero compito, che è, vediamo, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente al tuo ministero. Il Signore ti ha affidato, mi ha affidato un ministero, ed è quello di annunziare Cristo. Ognuno di noi è un evangelista, perché evangelista è proprio quello che dà l'Evangelo, che segue l'Evangelo e offre l'Evangelo. Quindi dice a Timoteo, quelle cose falle en passant, falle così a tempo perso, ma quello che tu devi fare è il tuo compito. Quello devi mettere in opera, quello devi mettere in pratica, annunziare l'Evangelo a tempo e fuori di tempo e dovunque ti trovi. Ora, io devo dire che io mi riconosco molto, forse anche Michele, mi riconosco molto in Timoteo, perché ho vissuto esattamente queste cose, forse a una potenza più elevata ancora di Timoteo, come vivevo io la timidezza, causata forse perché cresciuto senza padre, con tre donne. Le cause non ha più di tanto importanza, non dobbiamo andare a scavare sempre la causa, noi dobbiamo affrontare quella che è la problematica che viviamo e in Cristo Gesù superarla, vincerla. Perché io vi mostro una foto. Non so se si vede, là ci sono io. Era o l'autunno del 1968 o la primavera del 1969. E non è che mi fu chiesto, è come Paolo ha detto a Timoteo: vorresti testimonianza? Vai. Ora io ho accettato. E sapete perché? Non tanto perché sapevo, infatti non mi ricordo quelle che ho detto, quelle che ho fatto, se ho parlato, ma ho accettato per un solo motivo. Quando io ho accettato il Signore Gesù nella mia vita, io l'ho sempre detto, ho scoperto un padre. È un padre che mi dava supporto e aiuto. E io avevo sentito che in quel momento, anch'io Michele, ho accettato il Signore nella mia stanzetta, va bene? Si vede che non ho mai alzato la mano, non sono mai andata avanti, proprio per quelle situazioni. Ebbene, io l'ho accettato di testimoniare, vedete, non è se tutti uomini, questo è di una volta, no? Tutti col cappello, poi dovevate vedere le facce, si vedono anche davanti, non è che ti sono incoraggianti, ma io l'ho accettato perché io ho voluto vedere se quello che avevo avvertito, quella rottura, quella spezzata di catene dentro di me, fosse una realtà o una sensazione. E lì io ho capito che il Signore aveva fatto un'opera grandissima nella mia vita. Io lo so che forse voi pensate, tu timido, io ero talmente timido che non riuscivo a conferire nemmeno alle scuole superiori quando avevo 20 anni. Erano i miei amici che dicevano all'insegnante, no, la sa la cosa, perché veniva un blocco. Veniva un nodo alla gola e non sapevo esprimermi. Con i miei parenti mi andavo a nascondere. Ho detto anche l'immagine che io ho da bambino, quando andavo sempre dietro a mia madre, sempre, dovunque lei andava, anzi, addirittura, quando eravamo ospiti in una casa e gli davano da bere dell'acqua, poi mamma la passava a me, ma io segnavo dove aveva bevuto lei e la bevevo io, talmente dipendente per la timidezza. Mi nascondevo sempre dietro la sua gonna. Quindi questo mostra come sono cresciuta, ma mostra anche quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Non è incredibile? Cioè proprio io dovevo, cioè con tanti più capaci di parlare in oratoria, con tanti più intelligenti di poter esprimere concetti, il Signore ha chiamato a me. Perché? Perché? Sai perché? Perché così gli è piaciuto. Ha chiamato te perché così gli è piaciuto. Non c'è sempre un perché, non c'è sempre un... Non lo so dove siamo, ma comunque siamo verso la conclusione, va bene? Vinci se accetti l'appello di Gesù a servirlo. Vinci se accetti l'appello di Gesù ad accettarlo come personale salvatore, perché questo rinnova e cambia la vita, non solo annulla i peccati che determinano il nostro modo di vivere, i peccati che noi commettiamo e che facciamo, anche i più piccoli, segnano il nostro animo in maniera tale che non riusciamo a liberarcene. Gesù li perdona uno ad uno, ci dà una nuova prospettiva, anzi la parola di Dio dice ci dà una nuova vita. E una nuova vita vuol dire semplicemente che noi abbiamo davanti un cammino con il Signore. Il Signore rinnova ogni cosa, accetta la sua sfida. Amen? Amen. Non è venuto nessuno per... Non se lo aspettavano che termina. È dietro le quinte. Vogliamo alzarci in piedi e io vorrei... fare una preghiera per dire: Signore, grazie per l'opera che hai compiuto in ognuno di noi, nella mia vita prima e nella vita di tutti quanti noi. Signore, a te affidiamo ognuno che tu metti sul nostro cammino, affinché non siamo noi a essere determinanti nella loro vita, ma che possiamo essere quel segno affinché possano accettare te e rinnovare, cambiare totalmente la loro vita grazie all'opera che tu hai svolto sulla croce. Signore Gesù, ti rendiamo lode e gloria. Grazie per l'opera tua. Amen.